Letture di Radio 24. È così emozionante quando ci si innamora delle idee. E perdersi è meraviglioso. In un'intervista televisiva, David Lynch, il regista di Twin Peaks e Mulholland Drive, racconta la magia che sta dietro alla nascita di un film. Pur essendo piuttosto riservato, nelle sue interviste il regista americano parla dei suoi film, del cinema e delle sue altre passioni, come la musica o la pittura. In un articolo pubblicato sul numero odierno del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il critico cinematografico Roberto Escobar commenta l'uscita italiana di un libro che raccoglie 24 interviste rilasciate da Lynch dal 1977 ad oggi. Mangio la stessa cosa tutti i giorni per circa 6 mesi, o anche di più. Lo dice David Lynch, con l'aria di trovare la dieta non solo sensata, ma anche del tutto normale. Questa pratica alimentare, spiega, è rassicurante. Non ci sono sorprese. E certo non ci sono sorprese neppure nelle sue camicie bianche senza cravatta e ostinatamente chiuse fino all'ultimo bottone, o nelle sue idee politiche conservatrici e scontate, compresa la simpatia provata per Ronald Reagan e per la sua immagine da cowboy. Sorprendente, semmai, è che nei film e nelle serie televisive il suo stile perverso sovverte i valori tradizionali americani. Così scrive David Powers in un'intervista fatta a Lynch nel 2001, appena dopo l'uscita di Mulholland Drive, e che ora, insieme con molte altre, sta nel libro Perdersi è meraviglioso, titolo che viene direttamente dalla paradossale capacità del regista americano di smarrirsi fra le immagini e le storie. Certe idee narrative, confida Lynch a Powers, affiorano tanto dal profondo che sembrano arrivare da fuori. Non conta quello che significano, neppure conta che in senso stretto e immediato non significhino, ma alludano e aprano. Non le si deve interrogare, spiega. Molto meglio è abbandonarsi alle loro profondità. È così emozionante quando ci si innamora delle idee, dice Lynch. Non c'è molto altro a cui pensare se non provare ad addentrarsi il più possibile in quel mondo ed essere fedeli a quelle idee. In un certo senso ci si perde, e perdersi è meraviglioso. Mulholland Drive, per esempio, non ha avuto origine da una trama, da una storia lineare e compiuta, ma da un'atmosfera, da un'immagine, da un luogo. Chi abbia guidato su quella strada poco frequentata di Los Angeles, spiega Lynch, sa che è piena di coyote, di gufi, di chissà cos'altro. È questo, il chissà cos'altro, che riempie il film di mistero e meraviglia. Lo fa sin dalle sue prime inquadrature. Dopo immagini di uomini e donne sorridenti che ballano come in un musical degli anni 50, sullo schermo emerge luminosa la silhouette bianca di un volto di donna, Betty. Intanto, in soggettiva, la macchina da presa s'avvicina al rosso di un letto e di un cuscino. Le 2 ore che seguono sembrano non avere un tempo e uno spazio narrativi coerenti, definiti, ma solo aperti al possibile. Lynch si perde, e noi con lui. Alla fine il cinema torna però su se stesso, a mostrare il rosso dell'inizio, come se tutto il film fosse contenuto nei confini di un'immagine. Bocconi sul letto, Betty appoggia il volto al cuscino e si punta una pistola alla nuca. Qualunque cosa sia capitata fra le prime inquadrature e le ultime, qualunque sia il loro ipotetico significato, quel che resta è lo spazio minimo di quel gesto, il chissà cos'altro che riempie il suo attimo. Qualcosa del genere vale anche per Velluto Blu, girato 15 anni prima, e per Inland Empire, del 2006. All'inizio del primo, un uomo bagna l'erba di un giardino. In casa, l'immagine di una pistola riempie un televisore. Fuori, la canna dell'acqua si piega, si occlude, si gonfia. Con una mano, l'uomo tenta di afferrare il dolore che gli urla nella testa. Poi, tra il verde dei fili d'erba e il nero di insetti che brulicano, la macchina da presa entra nel labirinto di un orecchio e lì scopre fantasmi, rappresentazioni dell'abisso che squarciano la superficie. Nell'attimo di uno spasimo del sangue, il tempo e lo spazio del cinema e delle sue storie che emergono dal profondo si concentrano, si assolutizzano, si perdono. Quanto a Inland Empire, ad aprirlo è una lama di luce che attraversa lo schermo nero, da destra verso sinistra. Intanto un rumore sordo e battente grava sulla platea, come se la luce venisse da un elicottero. O forse la luce e il rumore vengono da un vecchio proiettore cinematografico, ma potrebbe anche trattarsi solo di un'immagine tra le molte con cui Lynch gioca. In ogni caso, da quell'inizio prende vita un film che va avanti e indietro incoerente, tra storie che non finiscono e non iniziano. O al contrario, tra frammenti di una storia totale, dell'insieme di tutte le storie che il cinema da sempre racconta e che riemergono dall'oceano dell'immaginario al pari di frammenti di navi che vi abbiano fatto naufragio. È questo oceano lo stesso in cui Lynch ama perdersi, nonostante la sua paura di sorprendersi. O forse è la sua paura di sorprendersi che lo induce a perdersi, film dopo film. D'altra parte, perdersi è la condizione necessaria per ritrovarsi. E quella che avete ascoltato è la recensione di Roberto Escobar al libro di David Lynch Perdersi è meraviglioso, interviste sul cinema, pubblicata sull'inserto Domenica allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Dalla tassa sull'ombra a quella sulle bonifiche del 1904. Sono 100 le microimposte, spesso assurde, catalogate dalla Confesercenti. L'ultima nata è la tassa sulle macchine a chiappa peluche. Davvero il nostro è un paese bizzarro. In questo caso, probabilmente i deputati alla Commissione Bilancio hanno tutti mille ottime ragioni per aver ideato l'ennesima nuova tassa partorita dalla potente fantasia del legislatore o del governo. Ne hanno fatto cenno i giornali nei giorni scorsi. Parliamo della fondamentale gabella che colpisce con un'imposta una tantum da 500 euro, 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, le macchinette chiamate a chiappa peluche. Sì, proprio quei giochini un po' di abilità e un po' palese fregatura, ammettiamolo, onnipresenti in tanti parchi e fiere. Si mette una moneta o un gettone ed ecco il bimbo alle prese con una specie di pinza mobile con cui bisogna acchiappare un pupazzo o un altro regalino entro un certo lasso di tempo. Non c'è dubbio che tutti debbano compiere il loro dovere fiscale e non c'è dubbio nemmeno sul fatto che anche i gestori di quelle che tecnicamente sono chiamate gru, pesche verticali o orizzontali di abilità comma 7A, debbano partecipare al titanico sforzo di inaudita austerità cui sono stati sottoposti gli italiani per centrare il pareggio di bilancio nel 2013. Ma vi è fatto di chiedersi se sia questo il modo giusto per far quadrare in modo civile i conti pubblici, ovvero se abbia senso o meno moltiplicare sfrenatamente le voci di entrata, anche se irrisorie, anche se a volte poco ragionevoli, quando, come tutti sappiamo, tutti i santi giorni c'è chi, sfruttando le inefficienze di quello stesso Stato, che adesso si accorge delle acchiappa peluche, riesce ad evadere allegramente e non pagare un centesimo di quanto dovuto. Insomma, ci si chiede se non varrebbe la pena di usare le scarse energie della macchina fiscale in modo più utile e soprattutto se non sarebbe il caso di cercare di evitare di massacrare la pazienza degli italiani con micro imposte o canoni che francamente a volte sono ridicoli, se non assurdi. Un anno e mezzo fa, la Confesercenti, nel suo dossier Balzelli d'Italia, ne ha individuate 100. Qualche esempio? Il business dell'elettroilluminazione votiva dei cimiteri e nei luoghi di culto. Un lumino sulla tomba del caro estinto potrà costare un euro l'anno, a dir tanto, ma è l'occasione per dover pagare alla concessionaria dell'appalto una bolletta da 15-20 euro l'anno. Perché può accadere, è successo a un albergatore di Desio, di ricevere la richiesta di 280 euro per imposta sulla pubblicità per aver esposto una bandiera italiana e una dell'Europa? Perché ogni brevetto per un'invenzione industriale deve pagare una tassa al momento della presentazione della domanda, un'altra per il mantenimento in vigore del brevetto, un'altra ancora per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni? Perché chi ha una casa costruita in una zona bonificata da decenni deve pagare ancora un'imposta varata nel 1904 sulle bonifiche delle paludi? Perché la dogana deve trattare e tassare in modo diverso, è successo a Genova, un pupazzo umanoide piuttosto che uno che raffigura un animale? Come si fa ad essere sicuri e tranquilli quando si deve pagare la tassa sull'ombra, ovvero quando scatta l'imposta per occupazione di suolo pubblico, perché la tenda di un locale che sporge un po' invade il marciapiede o la strada sottostante? E infine, sommessamente, qualcuno potrebbe spiegare perché si debbano pagare tasse perfino sulle stesse tasse, cosa che avviene tutti i santi giorni quando facciamo benzina? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Giovannini «Dai peluche alla tassa sull'ombra, la giostra dei 100 balzelli d'Italia», dalla Stampa del 12 novembre.